Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchesi. Al via il Consiglio dell'Unione Europea sul tavolo Balcani, stretta sui rimpatri, futuro dell'Unione. Merkel con Tusk, ma Polonia pronta a dare la battaglia. È un vertice di transizione quello che si terrà oggi e domani qui a Bruxelles. Di transizione perché l'Unione si sta preparando all'apertura formale del negoziato per l'uscita del Regno Unito e di transizione perché lo sguardo corre al 25 marzo, quando i Paesi membri celebreranno il 60° anniversario della costruzione europea e vorranno in quell'occasione rilanciare l'integrazione comunitaria. I 28 discuteranno oggi della situazione economica in leggero miglioramento, della necessità di difendere il libero commercio in risposta al protezionismo americano e delle nuove tensioni nei Balcani occidentali. In prima battuta, tuttavia, i 28 dovranno confermare alla presidenza del Consiglio europeo Donald Tusk. L'ex premier polacco deve fare i conti con il suo paese d'origine. Per motivi di politica interna, Varsavia vuole dare battaglia, ma sembra isolata e rischia la sconfitta nel suo tentativo di evitare la rielezione di Donald Tusk, considerato un rivale politico dall'attuale governo polacco. C'è il rischio di tensioni tra i 28, anche se l'esito della partita sembra deciso. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Il 79% dei polacchi ritiene che la Polonia dovrebbe unirsi a Germania, Francia, Italia e Spagna per proseguire la maggiore integrazione dei paesi membri dell'Unione Europea nel quadro di un'Europa a più velocità. Lo dice un sondaggio realizzato da Kantar per il canale polacco TVN. Ho stima, amicizia e rispetto per Matteo Renzi, conosco il suo contributo al dibattito europeo, ma io parlo solo con il governo italiano. Così dice il commissario Pier Moscovici, che risponde a chi chiede un'opinione sulle indicazioni dell'ex premier sulle scelte del governo per la manovra, come il no all'aumento dell'IVA. Ha detto Moscovici, sta al governo italiano di fare le proposte giuste, ma sappiamo qual è il gap, qual è lo sforzo da fare, che rappresenta lo 0,2% del PIL. Arriva la cosiddetta flat tax e l'Italia scende in campo alla conquista di stranieri, paperoni ad alto reddito, come altri paesi hanno già fatto in questi anni. Ma ci sono differenze nella competizione tra paese e paese. Per la prima volta l'Italia entra in pieno nella competizione fiscale internazionale, una gara per accaparrarsi i contribuenti ad alto reddito stranieri, non solo emiri ma anche calciatori e cantanti, non italiani però e nemmeno cervelli in fuga. Una gara iniziata ben prima della Brexit nei paesi europei ed extraeuropei. Per i paperoni che vengono in Italia non solo per lo sconto fiscale e che pagano da almeno 9 anni le tasse e risiedono in paesi stranieri, basterà pagare una tassa forfè di 100.000 euro l'anno. Ma si tratta davvero di una rivoluzione? E si tratta davvero di una flat tax? Si chiede l'avvocato Antonio Tomassini, esperto fiscale del Sole 24 Ore. La flat tax è un'altra cosa. Se hanno dei redditi in Italia, pagano le tasse come le persone normali. Scatta il paragone con la cosiddetta flat tax degli altri paesi competitor fiscali. Paesi comunitari come Portogallo e Malta, da un po' più di tempo il Regno Unito, no? Il regime dei Red No Dom, che adesso si sta un po' inasprendo, Monte Carlo e della Svizzera. Anche se tutti giocano sullo stesso piano, in Italia rimane un nodo. Leo Messi, che viene a giocare in Italia, sugli stipendi, chiamiamoli così, che percepirà dalla società di calcio italiana, Milan, Inter, Juve, Roma, che lo ingaggerà, pagherà le tasse in Italia. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 14, 6 minuti e 50 secondi, Europa 24 termina qui. Ci ritroviamo questa sera dopo le ore 21. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.